24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Il presidente della Commissione europea Barroso ha accolto con favore la proposta Merkel-Sarkozy sulla tassa per le transazioni finanziarie. Francia e Germania proporranno la Tobin Tax a partire da settembre. Le borse reagiscono chiudendo contrastate, ne parleremo. Andremo poi in Gran Bretagna, dove la giustizia punisce con pene esemplari i due protagonisti delle rivolte dei giorni scorsi. E andremo anche a Madrid, dove oggi è atteso il Papa per la 26esima giornata della gioventù all'insegna del gran caldo e del timore. Attentati. Ma apriamo questa edizione di 24 ore in Europa con la proposta Merkel-Sarkozy sulla tassa per le transazioni finanziarie accolta con favore dall'Unione Europea. Le proposte del vertice franco-tedesco su Tobin Tax, governo economico europeo e maggiore integrazione intorno all'euro incassano il sì convinto dalla Commissione Europea. Il presidente Barroso e il commissario Rehn ricordano anzi che presenteranno una propria proposta per tassare le transazioni finanziarie, mentre il portavoce della Commissione Olivier Bailly fa notare come anche sugli eurobond Merkel e Sarkozy non abbiano chiuso la porta. Il punto resta delicato, visto che secondo l'Istituto di Ricerca Economica Tedesco, IFO, gli eurobond costerebbero alla Germania 47 miliardi di euro in più di spesa per interessi. Ma a tenere banco è soprattutto la tassa sulle transazioni, che intimorisce i mercati e spinge Londra e Francoforte a una seduta negativa, mentre Milano e Parigi chiudono in rialzo. La Tobin Tax europea piace al premier austriaco Faymann e alle casse di risparmio tedesche, ma anche gli industriali della Germania non sono sfavorevoli. Frena invece la Gran Bretagna, contrarissimi la Deutsche Börse e la Federazione delle Banche Tedesche, come pure le banche d'affari europee. Intanto, dalla lettera che Merkel e Sarkozy hanno inviato a Van Rompuy emerge un'altra idea: bloccare i fondi strutturali per i paesi con disavanzi eccessivi che non si conformeranno alle raccomandazioni dell'Unione. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come abbiamo sentito, le borse europee hanno chiuso contrastate. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,77%, Londra ha perso lo 0,49%, Parigi ha invece guadagnato lo 0,73%. Bene, Piazza Affari, sentiamo. Piazza Affari tenta di ripartire al rialzo grazie al recupero di molti titoli industriali e alla buona tenuta del settore bancario. Dopo lo stop di martedì, quando i listini avevano risentito dell'effetto della Tobin Tax sul settore energetico, il FTSE ha guadagnato l'1,19% e il FTSE MIB l'1,27%. Maglia rosa di giornata è stata Pirelli, più 4,98%, ma gli acquisti hanno premiato anche Fiat Industrial, più 4,93%. Resta debole invece Fiat S.P.A., meno 1,01%, penalizzata dai dubbi sull'alleanza con l'Indiana Tata e dal calo delle immatricolazioni in Brasile nei primi 15 giorni di agosto. Tra le blue chip milanesi, giornata difficile anche per Finmeccanica. Il titolo è risultato il peggiore del FTSE MIB e ha perso il 2,64% a causa del taglio della raccomandazione degli analisti di Citigroup, che ora consigliano di vendere le azioni del gruppo della difesa. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Lo Sole 24 Ore. A luglio il tasso di inflazione nell'eurozona ha fatto registrare un calo dello 0,6% mensile, mentre rispetto a 12 mesi fa il tasso si è attestato al 2,5%. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, in Italia l'inflazione annuale scende dal 3 al 2,1%. La britannica Sab Miller, il secondo produttore mondiale di birre, ha lanciato un'offerta ostile da 6,9 miliardi di euro per acquistare il concorrente australiano Foster's. L'offerta è rivolta direttamente agli azionisti dopo che il board della Foster's ha rigettato la proposta. L'acquisizione da parte di Sab Miller darebbe al gruppo il controllo della metà del mercato australiano. E restiamo in Gran Bretagna. Mano pesante della giustizia contro due ventenni nel nord-ovest dell'Inghilterra, colpevoli di aver incitato la rivolta via Facebook nel corso dei saccheggi avvenuti la scorsa settimana nel Regno Unito. Jordan Blackshaw, 20 anni, aveva creato un evento intitolato Distruggere la città di Northwick, e il secondo imputato, Perry Sutcliffe Keenan, 22 anni, aveva fomentato una sommossa nel suo quartiere. Il giudice ha auspicato che le due sentenze servano da deterrente. Il vicepremier britannico Nick Clegg ha proposto di obbligare i responsabili dei danni a lavorare nelle aree colpite per riparare parte dei danni. L'allarme marea nera nel mare del nord, la Shell ammette che per turare la seconda perdita nell'impianto a largo della Scozia ci vorrà molto tempo e si scusa con le autorità locali per non averle subito informate dell'incidente. Dalla prima falla, quella individuata mercoledì scorso e già otturata, sono fuoriusciti circa 1300 barili di petrolio. Quanto alla seconda, dovuta ad una valvola difettosa, si stima una perdita di 1-2 barili al giorno. E ora andiamo a Madrid, dove si è inaugurata la giornata mondiale della gioventù. Oggi è previsto l'arrivo del Papa, mentre cresce la preoccupazione per possibili attentati. Come sapete, mi recherò a Madrid, dove avrò la gioia di incontrare numerosi giovani, la convenuta per la 26ª giornata mondiale della gioventù. Con queste parole, da Castel Gandolfo, il Papa annuncia il suo arrivo nella capitale spagnola, dove presiderà i festeggiamenti per 4 giorni. Centinaia di migliaia di Papa Boys hanno già invaso le vie della città. La celebrazione è stata aperta ieri sera davanti a una folla enorme dal cardinale Varela, arcivescovo di Madrid. Siete la generazione di Benedetto XVI, ha detto, dedicando la messa a Giovanni Paolo II. La manifestazione terminerà con la messa di domenica, in cui sono previste 1,5 milioni di persone. Nel caldo soffocante anche tantissimi italiani, per i quali è stato allestito un apposito presidio. Casa Italia. Non tutta la città è in festa, però. Manifestazioni contro la visita del Papa sono state indette dalle associazioni laiciste spagnole, sotto accusa i costi esorbitanti in un momento di crisi economica. Proprio queste progettava di colpire il 24enne messicano arrestato ieri dalla polizia. José Pérez Bautista, studente di chimica e cattolico estremista, era molto attivo nei forum online dove si scagliava contro gli oppositori del Papa. In rete il ragazzo parlava di utilizzare gas asfissianti e la polizia ha trovato nel suo appartamento appunti di chimica sospetti. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Sudan adesso, dove continuano le indagini per contattare i rapitori di Francesco Azzarà, l'operatore italiano di Emergency sequestrato 3 giorni fa. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Nessun riscatto al momento è stato chiesto per il rilascio di Francesco Azzarà, il volontario di Emergency rapito domenica in Sudan, a Niala, nel Darfur, mentre andava all'aeroporto per prendere un collega in arrivo da Khartoum. La conferma arriva da Rossella Miccio, coordinatrice dell'ufficio umanitario dell'associazione. Assolutamente no, e anche dalle autorità locali a Niala, il capo della polizia ci ha confermato ancora che non hanno ricevuto nulla neanche loro. L'organizzazione di Gino Strada ha istituito a Niala un team che segue le indagini con gli investigatori locali. Tra le motivazioni del rapimento potrebbe esserci il risentimento contro Azzarà di qualche persona che aveva collaborato con l'ospedale pediatrico di Niala, ma che ne era stato allontanato. Ancora Rossella Miccio. La situazione è tale in Darfur per cui tutto può essere possibile, anche una combinazione di vari fattori. Per cui noi non escludiamo nulla e così mi sembra di capire che non stiamo escludendo nulla neanche gli investigatori a Niala. E mentre si attendono notizie dai rapitori di Azzarà, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è sequestro di persona a scopo di terrorismo. Nel frattempo gli amici di Francesco Azzarà e i cittadini di Motta San Giovanni, il paese della Calabria originario del volontario, hanno organizzato una fiaccolata in suo onore. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di immigrazione, ancora uno sbarco nella notte nell'isola italiana di Lampedusa. Un'altra notte di sbarchi, un altro barcone carico di nordafricani è approdato a Lampedusa, 312 persone, tra cui 59 donne e 4 bambini, tutti assistiti e rifocillati sul molo e quindi trasferiti nei centri di accoglienza dell'isola. Solo ieri mattina un altro natante aveva scaricato 280 persone. Negli ultimi 4 giorni gli sbarchi hanno raggiunto la cifra di 2.600 migranti, sfondando così la quota di 50.000 africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia. Nel centro di prima accoglienza di Contrada Embriacola, dove vengono ospitati gli extracomunitari in attesa di essere smistati verso altre strutture, si trovano in questo momento circa 2.000 persone che saranno portate nei centri di accoglienza sparsi in Italia. Ma è polemica sull'applicazione del piano nazionale. Dalla Liguria arriva lo stop all'accoglienza di altri migranti e la richiesta che anche altre regioni come la Lombardia facciano la loro parte. Mentre un gruppo di migranti tunisini ospiti del centro di accoglienza di Pantelleria ieri ha appiccato il fuoco a materassi e su pelletti. Le fiamme si sono propagate all'intera struttura, sono intervenuti i vigili del fuoco. 80 persone sono state soccorse, nessun ferito grave. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: è stato arrestato il conducente del SUV che, guidando contromano e ubriaco sull'A26 Voltri Sempione, sabato scorso ha ucciso 4 giovani turisti francesi in viaggio dall'Italia verso la Slovenia. Fino ad oggi Ilir Beti, 35 anni, albanese, imprenditore edile, residente ad Alessandria, era indagato in stato di libertà per omicidio colposo. Un inglese di 30 anni, luna di miele alle Seychelles, è stato ucciso da uno squalo sotto gli occhi della moglie mentre stava nuotando nel mare dell'isola di Parslin. Il 2 agosto la stessa sorte era toccata a un francese di 36 anni. Sono aumentati negli ultimi giorni gli incendi dolosi di automobili parcheggiati nelle strade di Berlino. La scorsa notte ne sono state bruciate 17, che portano il totale degli ultimi 3 giorni a 28. Tra gennaio e agosto a Berlino la polizia ha registrato 80 incendi dolosi di auto.